Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta e benvenuti a Obiettivo Salute, l'appuntamento dedicato a chi vuole conoscere i migliori investimenti per stare bene e mantenersi sano. Apro con l'appello degli oncologi riuniti al Convegno Europeo di Oncologia Medica in corso a Madrid. Tumore del seno, la mammografia riduce la mortalità. Se la malattia è identificata in fase precoce, le guarigioni superano il 90%, ma troppe donne non aderiscono allo screening. A Obiettivo Salute la dottoressa Stefania Go, presidente eletto di IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. È proprio vero, non tutte le donne tra i 50 e i 69 anni di età che in Italia hanno o ricevuto un invito per recarsi presso uno dei centri in cui viene fatto lo screening mammografico riescono ad andare in questi centri per sottoporsi alla mammografia. Sappiamo infatti che poco meno del 60% delle donne che ricevono questa lettera di invito raggiungono queste sedi e si sottopongono all'esame mammografico. È una percentuale ancora troppo bassa per le donne italiane e c'è tra l'altro anche una notevole differenza tra le regioni del nord, del centro e del sud. Al sud sappiamo che la percentuale di donne che aderisce a questo invito è veramente molto bassa, al di sotto del 40%. Noi vogliamo fare questo invito a tutte le donne italiane tra i 50 e i 69 anni di recarsi ad eseguire una mammografia di controllo, di screening, perché una mammografia può evidenziare eventuali lesioni preneoplastiche o dei tumori molto piccoli e permettere con trattamenti adeguati, che sono sempre nella maggior parte dei casi conservativi, una sopravvivenza che, come appunto ha detto la dottoressa Carbone, supera addirittura il 90% a 5 anni. Se avete dubbi, domande e desiderate ulteriori informazioni, scrivete a obiettivosalute@radio24.it e ascoltate sulle pagine del nostro programma l'intervista integrale alla dottoressa Stefania Gori. Se l'emozione non ha voce, ha almeno un colore. Questa è la conclusione di una ricerca italiana che ha studiato, attraverso la misurazione della temperatura facciale, come a seconda degli stimoli emozionali che riceviamo, siamo indotti a includere o a escludere gli altri dalla nostra sfera sociale. Sulle nostre pagine potete trovare tutte le informazioni sulla ricerca. Ma a volte, cari amici, il rossore non dipende dalle emozioni, ma potrebbe dipendere da una malattia della pelle, soprattutto se l'arrossamento è accompagnato da squamazione, prurito. Probabilmente in questo caso potrebbe trattarsi di dermatite seborroica. Tra le opzioni terapeutiche c'è la luchina, un composto naturale con effetto antinfiammatorio e antimicotico. A Obiettivo Salute il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, Gruppo San Donato. E per finire vi consiglio Per chi suona la campanella, videoconsigli di Alberto Pellai per il primo giorno di scuola materna. E subito dopo, diretta Facebook, pausa pranzo con il dottor Attilio Speciani. Consigli, indicazioni, suggerimenti e ricette. A tra poco! E per oggi è tutto, ci sentiamo come sempre domani a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta!